fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, all'interno dei nostri studi si cercano di esaudire dei sogni e dei desideri, soprattutto quelli dei nostri festeggiati, insomma di tutti coloro che vengono qui a festeggiare insieme a noi, ma ogni tanto si esaudiscono anche i desideri dei dipendenti del convento e dello staff del convento. Ad esempio questo è il mio turno, perché sono circondato da 5 bellissime ragazze e non solo 5 bellissime ragazze, 5 bellissime ragazze di montagna. Di montagna, quindi doc, come piacciono a noi. E non sono qui per caso, ma sono qui per una bella festa, una bella ricorrenza, e facciamo due chiacchiere insieme a loro. Allora vai, cominciamo col giro di presentazioni. Chi vuole partire? Laura. Laura. Ilenia. Giada. Elisabetta. Vanessa. Perfetto, poi abbiamo due festeggiate, giusto, questa sera, che direi di... chiederei di riidentificarsi. Laura. Giada. Laura e Giada, quindi compleanno giusto vostro, sì. Molto bene, e diciamo partiamo subito dal cuore pulsante di questa intervista, cioè come mai vi siete fatti tutti questi chilometri da Ponte di Legno, che vabbè che c'era freddo, ma non è che qui si sta tanto meglio, per venire qui da noi? Perché abbiamo un ottimo autista che ci porta in giro. E dov'è adesso il vostro autista? È su Pulmino a dormire. Ah, e vi aspetta, mamma mia, un servizio fantastico. Ah, dici che puoi ottenere tutto? Puoi ottenere tutto, vabbè, però comunque gentile, gentile, bene, bene. Quindi poi tornate a casa? Oh, va bene, va bene. E venite da, ricordate bene il paese? Monno. Monno con la M, quindi lo ricordiamo per i più, vicino a Ponte di Legno, che è la località più conosciuta. E diteci un po' se è pronta questa stagione sciistica 2018. No, c'è ancora il sole. Qui dentro. Sì? Dai, ok. No, ma dai, pensavo che praticamente, tipo, mentre nel resto del mondo la gente beve i biberon, voi beveste la neve direttamente, cioè che voi crescete già sugli sci. No. A un anno già vi buttano sugli sci, no? Quattro. Vedi, vedi che 4 anni. E quindi la cosa che mi piace a me sempre ricordare degli sci è quanta gente conoscete con 48 kg di burro cacao sulle labbra? E con i segni sugli occhi degli occhiali? Degli occhiali, pardon, della mascherina? Tanta? Ma anche perché, cioè, fa veramente freddo poi, quindi il burro cacao è fondamentale. Confermate. Solare, perché sennò i raggi del sole in alta montagna bruciano. Questo non lo sapevo, ripeti? I raggi del sole in alta montagna bruciano. Ah, quindi bisogna proteggersi. Che bello. Anche con le nuvole, eh? Sì, anche con le nuvole. Qui mettila sempre, indipendentemente sempre, dalla stagione, dall'orario. Tutto, in crema di tutto. Tra l'altro sentivo anche dire, mi piacciono queste conversazioni da ascensore e da mercato, che se vai a sciare e ti metti il doppio paio di guanti, rischi di soffrire più il freddo che mettendone uno solo. Sì. È vero? Ma anche per mettermi le calze di lana. Sì, adesso, sulle mani, le calze di lana sulle mani. Mi piace che questa ragazza abbia ribaltato. Sì? Vabbè, tuo marito è giusto che ti prenda. Non può. Adesso poi glielo diciamo, lo redarguiamo e gli facciamo. Fa un po' il bulletto. Dopo gli diamo le schiaffoni sul culo. E perché così almeno gli facciamo capire che non si deve fare. Mi piace questa ragazza che ribalta un po' le consuetudini e si mette i guanti di lana le calze di lana sulle mani. Brava, Vale. È brava, brava. Sarebbe capace di farlo. Sì, dici. Sì, beh, insomma, a parte che c'ha questo vestito che non si nota assolutamente, quindi diciamo che di come si dice, di intraprendenza. La spilla? La spilla, sì. Che spilla? Qua. Ah, per chiudere. Per chiudere le tapparelle, perché sennò diciamo che si vede il paesaggio. Si vedono le montagne. Diciamo che lei tutto. Lei ha portato Ponte di Legno, cioè ha portato proprio il paesaggio montano. Però giustamente le ragazze hanno detto, sai cos'è, teniamocelo un po' per noi, cioè non è che lo dobbiamo far vedere a tutto il locale, e le hanno messo questa spilla per coprire. Allora, volevo un messaggio dalle amiche per le festeggiate, dai, che le festeggiate hanno già parlato, messaggio dalle amiche. Vi auguro 3 bevute gratis. Magari al microfono, così lo possiamo sentire. Vi auguro 3 bevute gratis al giorno come stasera. Al giorno. Bello, vedi, fuori da, questa ragazza è fuori dagli tanti schemi. Tanti figli maschi. Fuori dagli schemi, tanti, mi piace, mi piace. Maschi. Tanti figli maschi, bene, ma anche tu. Io vorrei più. Allora femmine. E tante figlie femmine. Sì, quindi lei è la femmina. Fondamentalmente vi augurano un asilo nido. Sì. Vi esatto. Stanno augurando un asilo nido. Bene. Ma noi non li teniamo. Ah, per ripopolare il paese. E quanto fa, monno? Ci sono 580 abitanti, quindi ce ne servono tanti. Amiche mie, 580, esatto, c'è da ripopolarlo, c'è da insomma impegnarsi, no? A parte che tu hai già litigato con tuo marito, sì, quindi. Ma non mi lei, ha detto che non te la do più, un bimbo di maschi di che è. Esatto. Hai sbagliato messaggio. Tanti adotteranno. Tanti bimbi adottati, quindi è il messaggio principale. Ok, allora festeggiate, volete mandare un messaggio voi? Vi interessa dire qualcosa? In generale, al mondo. Anche te, Laura. Piace questo entusiasmo per il vostro compleanno che aspettavate da tempo e che è molto sentito. Un anno lo aspettavamo. Eh sì, pensate. Solo per venire qua, Ah sì. Bellissimo, mi piace che portiate questo entusiasmo nel cuore e mi fa davvero piacere. Ok, allora noi vi auguriamo una buona fine serata, grazie di essere passate qui da noi e vi auguriamo di trovare sempre spille per coprire la vostra amica, perché sennò qui mi sa che regala le sue gradi. C'è il moroso, bisogna stare attenti. Attento che qui c'è ski pass gratuito, tra un po', qui regala gli ski pass la nostra amica e fa sconti comitiva e quindi chiedete dell'amica leopardata se volete avere un po' di sconti sul giornaliero, che è importante. Ho proprio fatto una brutta figura. Beh, ma guarda che il potere della radio è il fatto che non si veda e quindi puoi essere chiunque, puoi essere nessuno. Vabbè, se tu celi la tua identità così, però diciamo che è colpa tua e ti metti nelle mani del pubblico che è il sovrano. Però diciamo che puoi avere un po' di coda, un po' di richieste. Salutiamo chi è meglio, anche perché sennò andiamo sul piccante, sull'intimo e non è il caso. Grazie ragazze, auguri ancora a Laura e a Giada. Ciao!